Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo di tasse, ahimè, nel senso che oggi è stato presentato a Roma al Ministero dell'Economia il rapporto Paying Taxes 2016, pagare le tasse nel 2016, dalla Banca Mondiale e dalla società di revisione e consulenza PricewaterhouseCoopers. I dati sono riferiti al 2014, lo dico perché poi le polemiche non mancheranno. Perché? Perché in questa classifica l'Italia resta nella parte alta per peso fiscale sulle imprese. La media europea, pensate, del 40,6%, in Italia il peso fiscale sulle imprese arriva al 65%, 64,8%. Cosa include questo? Si chiama total tax rate, include tutte le tasse e anche sul costo del lavoro, per cui non va confuso con la pressione fiscale, perché prende in considerazione sia il peso delle tasse, ma anche sugli immobili, sia il lato contributivo sulle imprese. L'Italia si mantiene stabile al 137esimo posto su 190 paesi, ma è in miglioramento, nel senso che la pressione fiscale sta leggermente calando, tant'è che poi c'è anche una replica del Ministero dell'Economia e Finanze, dice che in 10 anni il peso complessivo del fisco per le imprese è calato del 12%, dal 76,8 del 2004 al 64,8 del 2014. È il costo del lavoro in Italia a pesare più sul carico fiscale rispetto alla distribuzione negli altri paesi. Praticamente sul 64,8% pesa per il 43,4%, 43,4 punti, viene considerata in questa voce anche il TFR, che vale 7 punti percentuali sul carico fiscale complessivo. Ripeto, non sono le tasse che pagano direttamente le imprese, ma anche le tasse che pagano indirettamente come contributi per i lavoratori assunti. Di questo parleremo anche dei primi allarmi, ahimè, che stanno arrivando dal mondo degli alberghi, nel senso che il presidente di Federalberghi Roma denuncia il fatto che moltissimi visitatori, in particolare provenienti dal sud-est asiatico, Giappone e da Giappone, Cina e Corea, stanno cancellando i tour che passavano per Parigi e arrivavano a Roma. Dice l'avremo ospite, il presidente Federalberghi Roma, che quasi tutti sono stati cancellati. E quelli che, appunto, il classico tour europeo, quello che di solito fa Parigi, Roma, Venezia o Londra, Parigi, Roma. Sono, tra l'altro, poi lancia anche un allarme sulla sicurezza. Il presidente di Federalberghi Roma dice che sarebbero tra i 30 e i 50 mila i clienti non censiti a Roma, cioè quelli che alloggiano in strutture extra ricettive, molte delle quali abusive. Va bene, si fa per dire, va bene, anche di questo parleremo. E poi in apertura invece il rapporto dell'Istat. È un rapporto importante perché segnala un miglioramento complessivo del clima delle famiglie italiane. Siamo tornati sostanzialmente a livelli che non si vedevano dal 2011 per alcune voci. Per esempio, la soddisfazione economica: il 57,3% delle famiglie hanno giudicato la loro condizione stabile o in progresso. Questo vuol dire ovviamente che c'è quasi la metà della popolazione, meno della metà però, che la giudica non stabile e non in progresso. Vale la pena notare però che il dato era del 52% nel 2014 ed è del 57% nel 2015. Siamo tornati ai livelli del 2011, prima quindi dell'intera manovra Monti e dell'attacco all'euro. Di questo parleremo appunto in apertura, oltre che degli elementi che riguardano fiducia e tassazione, la borsa più 0,22% in questo momento Milano, più 0,13% Parigi, più 1% Francoforte, lo 0,70% lo guadagna Londra, invariata l'America sul Dow Jones, euro in recupero a 1,0740, tra i titoli segnaliamo Ferragamo più 3,14%, Campari più 2,40%, Tod's più 1,80%, come A2A, l'1,5% lo guadagna Uxnet, Aporté come Azimut e Fiat Chrysler, l'1,30% Mediobanca, l'1% rialzo di Mediolanum e di UbiBanca. Fronte opposto, Unipol meno 1,30%, Prismia meno 1,30%, Moncler meno 1% come Terna, lo 0,90% lo perde invece Anima Holding. 349-238-6666 è il numero sia per i vostri sms che per WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Sempre dall'economia internazionale, e torniamo a parlare di un indice che guardavamo spesso nel 2009, e mi riferisco al Baltic Dry Index. Che cos'è? È il calcolo di quanto costa in media noleggiare un cargo per trasportare merci, prendendo a riferimento la media delle 20, se non ricordo male, rotte più conosciute, più trafficate. Ti dice sostanzialmente, non è importante solo per sapere quanto costa, ma ti dà un indicatore empirico dell'attività economica, cioè più sale quest'indice, più costa noleggiare un cargo per trasportare merci, più vuol dire che c'è domanda. Quando l'indice crolla o cala, vuol dire che c'è minor domanda del commercio mondiale. Ebbene, ora era a 11.600 punti nel 2008, poi era risalito non certo a quei livelli, adesso è di nuovo sceso a un minimo storico a 504 punti. Qual è il motivo? Il motivo si chiama rallentamento dell'economia mondiale, in particolar modo dei paesi che dovevano trainare, i BRICS, Brasile, Russia e Cina, ripeto ogni volta diciamo con l'eccezione dell'India. È un eccesso di capacità produttiva, per cui insomma si preferisce pagare anche prezzi più bassi, un po' come quello che raccontavamo ieri dell'invasione dell'acciaio cinese, che la Cina è in sovracapacità produttiva, lo vende a prezzi sotto prezzi di costo. Dicevo, è calato, e la dice lunga su quanto stia frenando l'economia mondiale. Non a caso oggi abbiamo anche un dato sulla disoccupazione in Brasile, che tocca l'8% nel mese di ottobre, è il peggior risultato dall'ottobre del 2007, il numero di disoccupati in Brasile è salito a 2 milioni di persone, è praticamente più 67% rispetto a ottobre del 2014, cioè un anno fa la disoccupazione in Brasile era al 4,7%, adesso è all'8%, insomma è raddoppiata in un anno, e te la dice lunga su quanto stia frenando il paese. E tra l'altro le previsioni sono di una disoccupazione in Brasile che entro l'anno dovrebbe toccare, ahimè, il 10%. La Banca Centrale Europea oggi ha diffuso i verbali della riunione del Consiglio Direttivo dello scorso 22 ottobre, e c'è un passaggio un po' preoccupante in cui la Banca Centrale Europea vede alti rischi di un ribasso delle prospettive di inflazione, cioè che l'inflazione, invece che salire un po' come vorrebbe, continui non solo a restare debole ma addirittura a scendere. Lo si legge appunto nei verbali del direttivo: i governatori hanno definito come ancora rilevanti i rischi di deflazione vera e propria. Per quello che riguarda invece lo scenario economico alla luce degli attentati di Parigi, c'è da dire che la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha detto che non cambia la prospettiva complessiva dell'economia mondiale, e anche l'agenzia di rating Standard & Poor's ha detto che il terrorismo non scalfisce i voti sui debiti dei paesi sovrani, c'è un rischio di impatto sulle prospettive di crescita. Invece la pensa in maniera un po' diversa il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che in una conferenza all'Ocse ha detto: insomma, gli attentati di Parigi aggiungono il loro peso negativo sulla fiducia, aumentano il livello di incertezza. Il numero uno dell'INPS, Tito Boeri, ospite oggi a Radio 24 nel programma di Giovanni Minoli, e mi riferisco chiaramente a Mix 24, è tornato intanto sullo stato di salute dei conti dell'INPS. Il rosso dell'INPS ammonta a 9 miliardi, ma le prestazioni sono tutelate dallo Stato, ha detto Boeri. Quanto ammonta il rosso dell'INPS? Sono 9 miliardi, ma di questo non devono preoccuparsi. Sono stati fatti molti allarmismi. Ma ci dobbiamo preoccupare di questa roba o no? No. Perché? Perché di fronte alle prestazioni che vengono erogate dall'INPS sono tutelate da delle leggi dello Stato, stabiliscono un diritto soggettivo dei cittadini, quindi finché non fallisce lo Stato italiano i cittadini non si devono preoccupare. Senta, però spulciando i bilanci si vede che i contributi versati sono 211 miliardi, quelli erogati 431, cioè il doppio. Ma in che senso non dobbiamo preoccuparci? Proprio per quello che diceva prima? Qua entriamo nei numeri, ma non tutte le prestazioni che l'INPS concede sono delle prestazioni di tipo contributivo, molte sono di tipo assistenziale, quindi a fronte delle quali non vengono versati dei contributi. E quindi che ci sia una sproporzione tra i due è assolutamente normale. Ricordo anche che Boeri ha definito i sindacati i veri paladini dei diritti acquisiti. Quando propongono di intervenire con una patrimoniale, anche quelli sono diritti acquisiti. Stiamo attenti quando parliamo di diritti acquisiti. Poi sulla riforma, sulla sua proposta di riforma delle pensioni, ha detto che l'intervento riguarderebbe circa 230.000 pensionati, quelli sopra i 3.500 euro lordi. Sotto i 3.500 euro lordi di pensione al mese non si deve temere nulla. Sotto i 3.500 euro lordi non si deve temere nulla. Non si deve temere nulla se uno è interamente col sistema contributivo. Più alta è la quota del contributivo, minore è la possibilità che ci siano interventi. Sotto tra i 3.500 e i 5.000 non si deve temere che ci siano dei tagli alle pensioni. Il peggio che può accadere è che questa cosa qui, che non ci sia l'indicizzazione all'inflazione. Ecco. Nelle nostre proposte vorremmo se fare questi interventi sull'indicizzazione soltanto su chi ha pagato pochi contributi in base rispetto alle pensioni che sta percependo. Chi li ha pagati tutti? Quindi non vogliamo non colpire tutti come è stato fatto sin qui, ma colpire semmai soltanto quelle persone che hanno delle prestazioni che non sono giustificate alla luce dei contributi. Senta, che hanno versato. Allora, noi proponiamo di fare la riforma definitiva e non è più indiscriminata come queste. Noi andiamo a colpire 230.000 persone, sono 230.000 su una platea di 16 milioni di persone, di pensionati. Quindi sono molto poche le persone, sono quelle persone che hanno delle pensioni alte, quindi possono in qualche modo permetterselo, e al tempo stesso che hanno delle pensioni molto più alte di quelle che sarebbero giustificate alla luce dei contributi che hanno versato. Quindi la sua riforma colpisce solo 230.000 persone pensionabile. E poi un commento sulle varie proposte politiche, in particolar modo il reddito di cittadinanza, che è uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle. Ha detto Boeri: attenzione, in quel modo i 5 Stelle darebbero il reddito di cittadinanza a tutti, indipendentemente dal reddito, anche a Berlusconi. Il reddito minimo che lei ha in mente, per parlare di cose concrete, è come quello che chiede il Movimento 5 Stelle? No, è diverso. In che cosa è diverso? Il Movimento 5 Stelle propone di darlo a tutti, indipendentemente dal loro livello di reddito, quindi anche a Berlusconi, per intenderci, darebbero. Invece noi pensiamo che va dato soltanto alle persone che hanno un reddito al di sotto di un certo livello, ecco, persone che sono davvero in stato povere di bisogno, perché il problema in Italia è che noi diamo soltanto 3 euro su 100 alle persone più povere, al 10% meno ricco della popolazione. Vedo che qualcuno, prima ancora che iniziamo l'approfondimento, già contesta l'Istat, dice che io sono renziano, ma guardate che insomma l'Istat fa un rapporto ogni anno, adesso ne parleremo, e ha misurato un miglioramento della definizione che le famiglie italiane danno della propria condizione economica. Non è solo il miglioramento, il voto di soddisfazione sulla vita è stabile a 6,8 punti. è lo stesso livello dal 2012, migliora giudizio sulle relazioni di famiglia. Comunque parliamone con chi, diciamo, è il responsabile del Dipartimento Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat, dottoressa Linda Laura Sabbadini, buonasera. Buonasera a voi. Senta, prima domanda, come si fa a tenere assieme il fatto che la quota di persone soddisfatte dalla propria situazione economica sia salita, e voi la misurate in maniera abbastanza significativa, dal 43,5% del 2014 al 47,5% nel 2015, sono 4 punti in più, con il fatto però che la soddisfazione sulla mia vita sia stabile a 6,8, come voto 6,8. Perché ci sono dei tempi diversi attraverso cui si maturano queste convinzioni. La soddisfazione della propria vita dipende ovviamente dalla situazione economica, anzi dipende pure fortemente dalla situazione economica, abbiamo visto anche in più occasioni, ma non dipende solamente da questo, dipende anche da altri aspetti che hanno a che vedere con il contesto complessivo proprio del paese. Se abbiamo visto per esempio che abbiamo dei segnali anche di peggioramento della fiducia negli altri, no? Cioè tutta una serie di aspetti che hanno a che fare con il clima sociale complessivo, la crescita anche della corruzione, possono in qualche modo incidere anche sulla valutazione, la soddisfazione della vita, che è un qualcosa di più grande della semplice condizione economica, seppure la condizione economica incide non poco tutto su questo, ecco. Allora, da questo punto di vista, ne dice, prima che poi questo si realizzi e si concretizzi, passa anche del tempo. Voi esatto. Notate, visto che il rapporto è complessivo, non è solo sulla situazione economica, sulla criminalità dite non è mai stata così temuta, è il livello più alto come timore della criminalità dall'inizio della serie storica nel 1994, eppure noi sappiamo che a livello di dati, questo non corrisponde ai dati che ci fornisce la Polizia di Stato, cioè non è che siamo arrivati ai livelli più alti di criminalità, c'è stato un aumento della microcriminalità dovuto anche alla crisi, soprattutto nelle città del nord, poi su questo voi dite anche qualcosa, ma statisticamente non è vero che abbiamo più crimine adesso. Allora, attenzione, la cosa va ben chiarita. Noi abbiamo avuto, a partire dagli anni 90, la criminalità predatoria soprattutto, quindi furti in abitazione, rapine, scippi, borseggi, eccetera, erano fortemente diminuiti, però poi negli anni 2000, soprattutto negli anni della crisi, che hanno coinciso con la crisi, abbiamo avuto un'inversione di tendenza che ha visto fortemente aumentare questi tipi di reati. L'ultimo anno, il 2014, è stato un anno in cui qualcosa si è fermato e si è rallentata questa crescita, però dobbiamo pure considerare che venivamo da vari anni in cui questa crescita era stata sentita, cioè era in qualche modo visibile. È vero che abbiamo dei segnali positivi, per esempio nel nostro paese abbiamo un tasso d'omicidi che è il più basso d'Europa e che non è cresciuto durante la crisi, segno che, diciamo così, non ci sono stati dei livelli di disgregazione sociale particolarmente accentuati. Quindi che succede? Che qui questo è il combinato disposto, diciamo, l'effetto in termini di paura è dato da un lato dal periodo lungo in cui abbiamo avuto l'aumento di questi reati, quindi questo incide più non tanto sull'oggi quanto, ho capito, nel tempo, se persiste incide di più, e dall'altro consideriamo anche che il 2014 è stato un anno di arrivo degli sbarchi, certo, eccetera, no? Che è stato un anno particolarmente intenso. Anche il 15 è la rilevazione che noi abbiamo fatto. Voi avete però fatto, è chiaro, i dati sono che il 14, certo. I dati che pesano poi su quel giudizio sono anche quelli del pregresso, cioè dei mesi immediatamente precedenti. Poi ci sono degli altri elementi di carattere economico, la fiducia degli italiani, lo diciamo molte volte, adesso comunque uno la pensi, e le critiche le abbiamo mosse anche alla legge di stabilità del governo Renzi, Però che l'obiettivo di Renzi, l'ha detto molte volte, non è un mistero, sia quello di ripristinare un clima di fiducia nel paese, beh, dietro questo obiettivo c'è comunque una variabile economica. Sappiamo che la gente spende o investe a seconda anche della fiducia che ha sul futuro, non solo dei soldi che ha in portafoglio o in banca. Voi sulla fiducia date alcuni elementi interessanti. Intanto peggiora la fiducia degli italiani negli altri. Ma chi sono questi altri? Siamo sempre noi? Questo sì, negli altri è messo in senso lato, nel senso che sono inseriti alcuni indicatori che parlano sia delle persone più vicine, i vicini, sia di alcune istituzioni, per esempio le forze dell'ordine, nei confronti dei quali c'è la fiducia, diciamo, più alta, no? Sia anche le persone strane. È chiaro che quella, rispetto alle persone che non si conoscono, è l'elemento su cui la sfiducia è più alta e anche cresciuta questa fiducia, però non ci dobbiamo meravigliare se questo succede in una fase in cui, come abbiamo visto, anche gli elementi di corruzione sono venuti fuori, no? In questo modo, cioè nel momento in cui c'è un clima sociale di questo tipo è più difficile che le persone riescano a fidarsi delle altre. Poi ci sono delle cose obiettivamente inaccettabili, cioè al sud il numero di famiglie che indicano tra i problemi, cioè se ho ben capito, le famiglie al nord, centro nord, indicano come problema principale la criminalità, ho capito bene? Senz'altro, ma questo non è un caso, perché per esempio furti d'abitazione, rapine nelle abitazioni sono molto più diffuse nel nord-est del paese che non al sud. Sì, beh, anche perché c'è una ricchezza maggiore, diciamo, soprattutto nel centro-nord del paese. E invece al sud una famiglia su cinque indica come tra i principali problemi l'irregolarità nell'erogazione dell'acqua. Ragazzi, siamo nel 2015, prego. È così, siamo al 18,3% in particolare per quanto riguarda il sud, e questo invece nel nord del paese è il 3,3%. D'altro canto il caso di cronaca anche di Messina sì, conferma che uno può che pensare, diciamo, uno no? può pensare che sia anche solo Messina, in realtà questo è inaccettabile, cioè quasi uno su cinque dice che il problema più grosso che ha è l'acqua, uno dei problemi grossi che ha è l'acqua. Poi se era un indicatore un pochino in diminuzione che invece si è di nuovo sì, tra l'altro di nuovo il 30% aumentato. Delle famiglie italiane e il 40% di quelle che abitano al sud non si fida a bere l'acqua del rubinetto. Qui ci stanno problemi di natura diversa, cioè non soltanto problemi di cattiva acqua, perché non è così, no. In molte situazioni c'è anche una non conoscenza, diciamo, della qualità dell'acqua che sì, noi sì, produciamo, perché ci sono delle regioni dove questo avviene, però è frutto anche di una mancata conoscenza. Certo, sul problema dell'acqua abbiamo dei problemi, tra l'altro lo sappiamo, non c'è solo un'irregolarità nell'erogazione dell'acqua che viene evidenziato qua, ma una dispersione molto forte dell'acqua, cioè l'acqua che viene immessa è molto superiore all'acqua che arriva poi alle famiglie. Dottoressa Badini, resti con noi, io dopo il meteo e la pubblicità vorrei chiudere sulla parte da cui eravamo partiti, perché la maggior parte dei messaggi di critica, di contestazione arrivano sul tema della soddisfazione economica, sale la soddisfazione economica. Bisogna chiarirlo bene questo concetto, anche perché guardate che dire che il 47% delle persone contro il 43% di un anno fa è soddisfatta della propria situazione economica e che le famiglie sono al 57% non vuol dire non ricordare che quasi l'altra metà non è soddisfatta. Comunque, dopo il meteo e la pubblicità. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Allora, vedo molti che contestano, o meglio dicono che le dichiarazioni rese da Tito Boeri, presidente dell'INPS, oggi con Giovanni Minoli a Mix24 qui a Radio24, non sono nettamente in contrasto con i 5 Stelle. I 5 Stelle sarebbero dispostissimi a discutere il reddito di cittadinanza proprio nel senso proposto da Boeri, quindi con un tetto un tetto in base a quanto guadagni. Bene, parlatevi. Io invece vorrei continuare a parlare con la responsabile del Dipartimento Statistiche Sociali e Ambientali Istat, Linda Laura Sabadini, sul tema della soddisfazione economica. Allora, guardi, glielo dico molto chiaramente, Sabadini, il rischio in questo momento qual è? Siccome la ripresa è debole, è modesta, è diretta da variabili esterne finché reggono, euro debole, petrolio bassissimo e tasse interesse a zero, quello che noi vediamo è che il dato vostro dell'Istat, che per forza aggregato segnala, e non solo voi, anche la OCSE e tutti gli altri istituti, una ripresa dell'attività economica, anche dei consumi quest'anno, non solo dell'export. Però poi gli ascoltatori, o li abbiamo tutti noi, questa cosa non la vedono, dicono ma non ci prende in giro, quindi dire che sta migliorando va detto a mio avviso con molta cautela e senza un eccesso di ottimismo, perché sennò qualcuno si sente preso in giro. Allora, qui stiamo parlando intanto della percezione dei cittadini. È chiaro che qui stiamo sempre parlando di una situazione in cui non è la maggioranza dei cittadini che è soddisfatta della situazione economica, quindi in gran parte, diciamo, i cittadini, anche che hanno telefonato, si riconosceranno probabilmente proprio in quella più di metà della popolazione che non si ritiene soddisfatta della situazione economica. Però quello che è successo è comunque che un segnale di miglioramento c'è, e questo lo dobbiamo dire che c'è, perché mentre tra il 2011 e il 2013 noi abbiamo avuto una caduta della soddisfazione economica, cioè siamo arrivati ancora più in basso e c'è stata una caduta nell'arco di 2 anni di circa 8 punti percentuali soddisfazione. Tra il 2013 e il 2015 abbiamo recuperato questi otto punti, cioè c'è stata una nuova crescita di 8 punti. Certo, la situazione ancora non la possiamo considerare una situazione ideale, molti nodi devono essere assolutamente sciolti, però questo sta avvenendo proprio, tra l'altro questo ce lo dicono all'inizio, cioè nei primi mesi del 2015, in cui alcuni segnali sull'occupazione anche erano venuti, in cui sono venuti anche sul fronte dei consumi, cioè lo dobbiamo considerare così, non è che non si può dire che si migliora la situazione perché ancora non siamo completamente usciti. No, ma poi tra l'altro posso aggiungere anche una nota di carattere più, diciamo, sulla comunicazione. Allora, è sbagliato dire la situazione sta migliorando, tutto va bene, madame la Marchesa, perché prende in giro le persone. Però è anche vero, e questo lo dico per esperienza, che chi non si ritrova nella quota del 57% delle famiglie o 47% degli individui che dicono la mia situazione è stabile o in progresso, scrive, si arrabbia, scrive su WhatsApp, scrive messaggi, telefona, scrive mail. Gli altri tendono a fare, diciamo, la parte silenziosa, in questo caso anche maggioranza, perché siamo al 57%. Quindi fa più notizia a chi non si ritrova, giustamente, ed è arrabbiato. Diciamo, ma come? Voi dite che la situazione è migliorata, a me non migliora nulla, anzi, magari è anche peggiorata. Per cui c'è anche un effetto, tra virgolette, mediatico. Io la ringrazio, grazie quindi alla responsabile del Dipartimento Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat, Linda Laura Sabadini. Nel frattempo, oggi per il processo di Trani sta indagando sull'attività dell'agenzia di rating Standard & Poor's nella vicenda famosa del declassamento del voto dell'Italia tra maggio 2011 e gennaio 2012. Il reato contestato riguarda 5 tra analisti e manager dell'agenzia di rating, quelle che danno i voti ai debiti dei paesi e dei privati, accusati di aver fornito intenzionalmente ai mercati finanziari 4 report contenenti informazioni tendenziose e distorte sull'affidabilità del debito italiano e sulle iniziative di risanamento adottate dal governo per disincentivare l'acquisto dei titoli del nostro debito e deprezzarne il valore. L'ultimo report sotto accusa è quello con cui il 13 gennaio 2012 Standard & Poor's decretò il declassamento dell'Italia di 2 gradini, cioè perdemmo 2 voti in una botta sola, da A passammo a BBB+. La stessa responsabile, il direttore del debito pubblico del Tesoro, Maria Cannata, deponendo al Tribunale di Trapani, ha detto il declassamento di due notch, come si chiamano in gergo, di due gradini, non ci stava del voto italiano, non era giustificato, è stato poco coerente nel merito. Aver detto nel rapporto che si poteva arrivare fino a due gradini e poi, nonostante le manovre messe in atto dal governo, l'hanno comunque declassato, ne bastava uno. Lo stesso l'ex premier Romano Prodi, deponendo al Tribunale di Trani, ha detto: quello che mi preoccupava e che mi preoccupa è la debolezza del nostro sistema di fronte a questo giudizio, che deve essere inserito in un più robusto quadro normativo, cioè non possono avere il monopolio dei giudizi. Faccio notare una cosa, io adesso non, figuratevi se conosco gli atti dell'inchiesta di Trani, l'accusa è chiara, io non so se ci fosse una intenzione nel declassare l'Italia per favorire la speculazione di chi speculava, diciamo, contro l'euro finché non intervenne Mario Draghi. Faccio notare che se non c'era, diciamo, non c'era stata un'intenzione nell'agevolare la speculazione dove ci sarebbe un reato, si potrebbe trattare, a quel punto però bisogna dire che si tratta di incompetenza, cioè nel senso che se tu come agenzia di rating non sei un normale cittadino, non sei chi conduce questo programma, che racconta, tu sei un'agenzia di rating che dovrebbe essere stra preparata sull'analisi dei debiti, perché questo fai nella vita, guadagni e guadagni sui voti che dai, perché i governi pagano per ricevere un voto. Bene, se tu prevedevi che l'Italia potesse essere a rischio default, se nel 2015 siamo con i bot a rendimenti negativi, con i CTZ a rendimenti negativi, con praticamente si compra debito italiano anche se non rende più, se è un rendimento negativo, quantomeno non ci capivi nulla, quantomeno se hai ipotizzato che l'Italia non potesse pagare il suo debito non ci capivi nulla, nell'ipotesi bonaria, nell'ipotesi contestata dalla procura di Trani l'hai fatto invece intenzionalmente per aiutare la speculazione di chi giocava su un'Italia che sarebbe uscita dall'euro, che non sarebbe riuscita a ripagare il suo debito. Traffico e poi la pressione fiscale. Focus Economia. Allora, arriviamo anche alla pressione fiscale e il rapporto Pricewaterhouse Banca Mondiale. Qualcuno mi dice: beh, perché la procura di Trani invece è competente? Ragazzi, la procura di Trani indaga su un'ipotesi di reato. Io sto solo dicendo che quantomeno non ci hanno capito molto se dopo 4 anni scarsi, perché era l'ottobre, novembre del 2011, 4 anni di abbiamo i rendimenti più bassi nella storia della Repubblica Italiana, rendimenti anche negativi, che vuol dire che tanto ti fidi del debito italiano o del contesto esterno che vai a comprare debito italiano anche quando ci perdi dei soldi. È vero che lo spread era a 5,60, bisogna capire perché andò a 5,60. Certo che se l'agenzia di rating non può dire che prende atto dopo, l'abbiamo già vista sta cosa con Parmalat, l'agenzia di rating fa l'analisi prima e influenza a quel punto i fondi di investimento, perché i fondi di investimento, faccio un esempio, i fondi di pensione hanno l'obbligo in molti casi di non investire su titoli di Stato o azioni sotto un certo livello di voto, perché metterebbero a rischio i risparmi dei loro pensionati. Quindi non è una cosa da poco sapere se l'Italia aveva la A o la triple o due gradini in meno, la triple B più. Poi te credo che una volta che declassi il voto la gente va a vendere e aumenta lo spread italiano, cioè devi offrire più interessi per trovare dei finanziatori, ma la causa è Standard & Poor's, o una delle cause, non è la conseguenza. Non facciamo sempre le virginelle a dire che ma noi abbiamo preso atto che, allora che cavolo ci stai a fare come agenzia di rating? Prendi atto che non capisci nulla dal punto di vista dell'andamento del debito italiano, perché è successo l'esatto opposto. Uno mi può dire: ma non potevamo immaginare che Draghi sarebbe intervenuto. E che ci stava a fare Draghi? Dire bella statuina. E comunque, se non sai immaginare che intervenga la banca centrale, vai a fare un altro lavoro, quantomeno. E basta queste agenzie di rating, ogni volta hanno una scusa, le demi-vierge, visto che dobbiamo parlare francese, della virginità. N'est pas question de centimètre. Allora, la borsa oggi più 0,45%, Milano più 0,17%, Parigi Londra più 0,80, gli Stati Uniti invariati e chi mi manca? Francoforte più 1,15%. Poco mossi oggi i titoli, non ci sono dei grandissimi spunti su questo. Faccio notare che il peggiore Prismi almeno 1%, come Unipol, il migliore Ferragamo più 2,95% come Campari, e ancora Azimut più 2, A2A più 2,40, Jux Net-a-Porter più 1,80%. Però c'è qualche novità che riguarda Exor, o meglio la conclusione di una vicenda che ha a che fare con la società di riassicurazione Partner Re, ok dei soci dell'Exor, quindi la contratta del gruppo Fiat per nell'assemblea straordinaria. Partner Re ha approvato l'accordo di fusione firmato da Exor lo scorso 2 agosto, il titolo però poco mosso, ma intanto ne parliamo con Eleonora Michei di Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Vai Leonora, al di là di Exor, oggi insomma Enel un po' al palo, Ferragamo un po' in recupero. Sì, allora, insomma, per quanto riguarda giornata, Enel, il piano non continua a non convincere. In verità poi i titoli sul finale l'hanno recuperato e segnato un più 0,39%, ma per gran parte della seduta diciamo che oscillavano attorno ai prezzi di chiusura di ieri. Un piano che comunque indica una crescita per la società, una crescita media dell'utile del 10%, ma evidentemente gli analisti si aspettavano di più. È andata meglio Enel Green Power, più 0,67%, in vista dell'integrazione con la casa madre Enel. Poi si sono distinte le Ferragamo, hanno fatto quasi più 3%, più 2,95%. In questo caso si scommette che riprendano verbo le vendite in Cina. Peraltro già l'amministratore delegato Michele Norsa ha detto che nella Cina, fatta eccezione di Hong Kong, le vendite tutto sommato non vanno male, ma poi ricordiamo che intanto quest'oggi anche la Banca Centrale Cinese ha di nuovo annunciato una mossa a favore dell'economia, ha annunciato un taglio dei tassi sulle operazioni di rifinanziamento a 1,7 giorni, si tratta ovviamente di una nuova mossa per dare una spinta alla congiuntura cinese, cosa che fa ben sperare, che ha dato tutto sommato una spinta non solo a Ferragamo ma ad esempio anche altre società esposte in Cina. Todds ha fatto più 1,55%. Sì, e questo diciamo è il quadro complessivo. Oggi non è, ripeto, una giornata, non è che deve sempre essere una giornata di borsa esaltante o piena di spunti. Spunti ce ne sono pochi, qualcosa si muove, oltre ai titoli che tu citavi, anche a 2A più 2,40, diciamo di Campari più 2,90. Telecom Italia invece, perché è arrivato l'ok del rappresentante degli azionisti la conversione del risparmio in ordinare. Esatto, ieri in tarda serata borsa chiusa, quindi il rappresentante degli azionisti di risparmio ha detto che l'operazione tutto sommato è positiva, infatti ci sarà una semplificazione della struttura di Telecom Italia che non vedrà appunto più il risparmio, quindi ha dato il suo semaforo verde. I titoli oggi hanno registrato un più 0,78%, ovviamente l'operazione dovrà essere approvata dall'assemblea prima degli azionisti ordinari, chiamata a riunirsi il 15 di dicembre, dopo pochi giorni da parte dei risparmisti. Ovviamente c'è una grande attenzione comunque su Telecom Italia anche dopo i recenti riassetti nell'azionariato, e mentre si avvicina a questo punto la data dell'assemblea dove se ne potrebbero vedere delle belle, visto che Vivendi ha già chiesto di essere rappresentata nel consiglio di amministrazione. Allora, altro tema, i matrimoni, insomma qui si va un po' in ritardo su questi matrimoni del mondo dei popolari. Oggi ho visto che il Banco Popolare andava bene, poi insomma, mi sembra che abbia un po' ritracciato nel finale. Dove mi è finito il banco? Eccolo qua, più 0,50, è meglio Mediobanca più 1,70, Ubibanca più 1%, come Intesa San Paolo, la Pop Milano. Ma insomma, non so quanto tutti interna dei matrimoni, ma di quelli delle popolari io non sento più parlare. Invece ieri sono andata proprio fuori dal comitato esecutivo dell'ABI e c'erano numerosi banchieri, in primis Saviotti, che è l'amministratore delegato del Banco Popolare, ha detto di augurarsi novità entro fine anno, quindi da ieri infatti il Banco Popolare, al di là come hai notato tu che ha frenato sul finale, oggi era uno dei titoli migliori. Sì. D'altra parte al tempo stesso la BPM, che risulta essere tutto sommato la banca più corteggiata, proprio ieri Castagna sempre uscendo dal comitato esecutivo, ha detto speriamo, ma si parla molto ma non si si parla molto sì, che ma non facciano si come la bella Rosmunda, tutti la vogliono, nessuno, no, la bella Rosalinda, tutti la vogliono, nessuno la piglia, non me la ricordo più. Comunque non è Micheli, grazie. Dopo i migliori e i peggiori, daremo anche una nota sui matrimoni e la tassazione per le imprese in Italia, che incluso i contributi è una delle più alte al mondo. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, grazie per i molti consigli, la sora Camilla, tutti la vogliono, nessuno la piglia, la bella Maria, non è la bella di Torriglia, nessuno, tutti la vogliono, nessuno la piglia. Il tema era i matrimoni bancari delle popolari, che sono matrimoni obbligati, diciamo, dalla riforma del governo delle banche popolari. Al di là delle battute, aspettiamo ancora, al di là delle dichiarazioni di Saviotti, che giustamente citava l'onore Micheli, l'amministratore delegato del Banco Popolare Pierfrancesco Saviotti, sperano di raggiungere una fusione entro l'anno, però ancora di operazioni, diciamo, concrete se ne vedono poche. Poi un ascoltatore scrive: forse aspettano la legge sui matrimoni gay. Diciamo che faccio finta di non capire quale sia l'obiettivo finale. Beh, certo che una delle due banche sarà più preda, l'altra sarà più predatore, mettiamolo così, dai, per favore. Sono ancora le 18.10, è ancora Focus Economia. Vabbè, massima comprensione per l'ascoltatore che dice: l'ascolto tutti i giorni, lei non imbrocca mai una, apprezzo il masochismo. E invece andiamo avanti con i migliori e peggiori della della giornata, anche della serata a sto punto. Friendly Energy più 22%, SafeBank più 8%, De'Longhi più 5,30%, e poi Nova Re invece meno 6,70%, Worldspace 2 meno 9,50%, Alba Private Equity meno 5,20%, Astaldi meno 4,70%. Ripeto, giornata priva di grandi spunti in borsa. Invece la notizia è che l'Italia ha un record, non siamo a record, siamo tra i paesi dove la tassazione sulle imprese è più alta. Attenzione però, il rapporto è della Banca Mondiale di PricewaterhouseCoopers, attenzione a come viene considerata questa tassazione. Siamo al 137esimo posto su 189 paesi. In Europa per carico fiscale dopo di noi c'è solo la Francia che ha il 62,7%, poi il Belgio 60%, sotto la media europea la Gran Bretagna al 40%, noi siamo al 64,8%. Allora, ringrazio dottor Francesco Acerbis, che è managing partner di PricewaterhouseCoopers Tax and Legal Services, da leggere per esteso non solo l'acronimo. Grazie e buonasera. Buonasera. E grazie anche a Salvatore Padula del Sole 24 Ore, di cui è vice direttore, voce dei 100 secondi e ospite Radio 24. Tra le altre cose, buonasera anche a te, Salvatore. Grazie, buonasera. Allora, dottor Acerbis, chiariamoci, perché dire che la tassazione è del 64,8% fa cascata la sedia. In realtà voi in questo rapporto mettete assieme la tassazione vera e propria sulle imprese con altre forme di tassazione, in inglese si chiama total tax rate, cioè che cosa? Anche i contributi che pagano le imprese ai lavoratori? Sì, è così. Questo rapporto è un rapporto che viene redatto a quattro mani tra noi e Banca Mondiale, ha lo scopo di rendere omogenei una raccolta di informazioni che avviene sulle 189 economie. Ecco, il total tax rate è sostanzialmente l'insieme del carico fiscale e contributivo di un'impresa tipo definita come un'impresa con 60 dipendenti al secondo anno di attività, con tutta una serie di caratteristiche, e quindi non è un dato che certifica la pressione fiscale, ma comunque è un indicatore che molti governi usano per misurare il carico fiscale. Per capire quanto costa complessivamente di tasse dirette, quindi nel caso nostro IRES, l'IRAP, e di tasse indirette, cioè il fatto che ogni dipendente abbia un costo di, diciamo, di 3.000 per un'impresa, e poi in realtà in busta paga ne becca quasi poco più della metà, dipende poi chiaramente. E questo voi lo considerate come un costo di impresa, tant'è che il governo, quando è intervenuto sugli incentivi fiscali, ricordiamolo, dal 1 gennaio è intervenuto anche riducendo sensibilmente per i neoassunti la contribuzione, ecco, immaginando che in questa fosse comunque una forma di tassazione indiretta per le imprese. Tra l'altro, dottor Acerbis, se uno va a scorporare così la tassazione complessiva delle nostre imprese tra quella che è tassazione diretta e tassazione dovuta agli oneri contributivi, il dato è ancora più significativo. Diciamo che l'elemento, se scorporiamo la cosiddetta profit tax, siamo al 40%, quindi una quota molto alta. Sì, siamo fra i paesi con la quota più alta di porzione contributiva e oneri del lavoro. Cioè sul totale di tasse noi siamo tra i paesi in cui pesa di più la parte contributiva e oneri del lavoro. La replica del Ministero dell'Economia e Finanze dice: attenzione, in 10 anni il fisco per le imprese è calato di 12 punti, dal 76,8 al 64,8%. Salvatore Padula. Ma sai, sì, è calato, certo, però insomma siamo a quasi al 65%, cioè veramente mi sembra che continuiamo ad avere un livello di tassazione reale sulle imprese, tassazione totale, reale sulle imprese, che insomma non sta né in cielo né in terra. Insomma, altre economie molto più competitive della nostra hanno tassi molto più bassi e hanno, diciamo, offrono servizi ai cittadini e alle imprese di gran lunga migliori rispetto a quelli che offriamo noi. Quindi, diciamo, la somma di questi due elementi, è vero che oggi ho sentito insomma che il Ministero dell'Economia attraverso il Dipartimento delle Finanze in qualche modo dice: sì, però attenzione, perché il prossimo anno entreranno in vigore le misure della vecchia legge di stabilità e poi arriveranno quelle della nuova legge di stabilità. È vero, per carità, che si è avviato un percorso che, diciamo, in prospettiva porterà il carico fiscale sulle imprese a ridursi, però, diciamo, onestamente i risultati ancora si vedono molto poco, insomma. Sì, con un effetto pernicioso, con un effetto negativo ulteriore, e cioè che con una tassazione che punisce, che è più squilibrata sul fronte dei costi per i dipendenti che della tassazione vera e propria, voi dite appunto sul 64,8, sul 65% di tassazione, ben il 43,5% sono i costi degli oneri per i dipendenti, che, ripeto, non è quanto becca in busta paga al netto dipendente, è quello che chiede lo Stato di oneri contributivi. Qual è la conseguenza negativa? È che scoraggi tutte le imprese che sono labor intensive, come dicono gli inglesi, cioè che hanno un alto contenuto di lavoro, di manodopera, cioè meglio avere più macchinari e meno dipendenti se la tassazione è ripartita in questo modo. Acerbis. Sì, io devo dire innanzitutto che mi ritrovo abbastanza con i commenti del Ministero, dove dice che il dato di per sé è un dato mai storicizzato, perché stiamo considerando il periodo d'imposta 2014 in questo rapporto, quindi alcune delle iniziative che sono state poste in essere avranno sicuramente un effetto sull'indicatore di tipo positivo. Certo è che da un punto di vista del carico di lavoro, l'Italia, cioè della parte contributiva, l'Italia è in effetti, diciamo, tra i paesi con cui ci si confronta sostanzialmente con il teatro europeo, uno dei paesi, guarda caso insieme alla Francia, che è molto vicina a noi come dati, con il dato in assoluto più alto. Sì, questo se posso aggiungere una cosa, in effetti potrà essere interessante il prossimo anno vedere l'impatto che avrà che ha avuto la decontribuzione. Sì, che è su una quota a parte, perché è solo per i neoassunti. In alcuni casi, non vorrei essere troppo pignolo sulla metodologia, sarà tra 2 anni, perché l'impresa prende a caso il secondo il secondo anno di attività, quindi in realtà avremo degli effetti tra due anni. Aspettiamo due anni. Però, però è sicuramente vero che siamo dentro un percorso che dovrebbe migliorare gli indicatori. Questo, certo. E ribadisco, attenzione, ecco perché modestamente, ma non siamo stati soli, abbiamo detto sulla legge di stabilità che era preferibile abbassare il carico fiscale sui lavoratori e sulle imprese, anche per quello che riguarda i contributi, per esempio, un po' anche, e non su IMU e TASI. L'abbiamo detto fino allo sfinimento, molti dicono no, abbiamo già spiegato, il governo è un governo politico e giustamente fa una legge di stabilità con obiettivi politici oltre che economici, e dal punto di vista elettorale è indubbio che l'IMU probabilmente paghi più dell'IRPEF e dell'IRAP, ma da un punto di vista economico e produttivo il carico fiscale che era da alleggerire era quello sui lavoratori, cioè su chi lavora e su chi dà lavoro. Dopo il traffico, un'ultima domanda per il dottor Acerbis che riguarda altri oneri che non sono fiscali ma pesano tantissimo, mi riferisco agli oneri burocratici, gli adempimenti e quante ore all'anno se ne vanno in un'impresa normale, quella che voi avete utilizzato come riferimento per gli adempimenti burocratici. 349-238-6666 per gli sms, per la pagina di WhatsApp e poi Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Minuti. Allora, dottor Acerbis, quanto ci mettono le imprese per adempiere a tutti gli oneri burocratici di questo paese e anche sui pagamenti? Voi avete fatto la media, prego. Sì, il risultato del ranking italiano è figlio sostanzialmente di tre indicatori. Il total tax rate è quello di cui parlavamo prima, gli altri due misurano sostanzialmente la cosiddetta compliance, cioè il tempo per adempiere e il numero dei pagamenti, ritenuti due indicatori fedeli del grado di semplificazione o di complicazione di un paese. Ecco, da questo punto di vista l'Italia come numero di pagamenti direi che è abbastanza allineata al dato europeo. Sono il numero di pagamenti che vengono effettuati attraverso sistemi telematici o no in un singolo paese per il carico d'imposta, sempre in carico all'impresa tipo. Ecco, questo dato è, ripeto, sostanzialmente allineato al dato europeo e sono 14 i pagamenti secondo la metodologia, mentre invece per quanto riguarda il tempo speso siamo ad un dato che è ancora più alto, 269 ore all'anno. Esattamente. È quello che costa un'impresa in termini di ore adempiere a tutte le normative di carattere burocratico, insomma, gli adempimenti burocratici. Quanta in Europa è 100 ore secche in meno? Ora, 100 ore non è pochissimo nella vita, poi dipende dall'impresa che hai, se hai una grande impresa, ma se inizi ad avere una piccola impresa, 100 ore pesano. 170 ore la media europea, perché poi ci sono paesi in cui si scende a 100 ore, 80, quindi stiamo parlando della media che include anche la Francia, anche la Spagna, anche altri paesi non così efficienti. Salvatore Padura, per chiudere su questo, perché poi vorrei andare agli albergatori romani molto preoccupati di altro, mi sembra che sul fronte dello snellimento burocratico noi a suo tempo chiedemmo una Bassanini per le imprese, cioè una specie di autocertificazione, fatte salve le regole principali, dei vigili del fuoco, cioè, che poi portasse gli ispettori dell'agenzia del Ministero dell'Ambiente per l'impatto ambientale a controllarti, ma una volta che è ripartito con un'autocertificazione in cui tu dichiaravi, se la norma però non cambia, che eri in regola, dichiari il falso, come con l'autocertificazione vai nel penale, sanzioni pesantissime. Mi sembra che sullo snellimento burocratico fiscale si sia fatto poco. Guarda, forse perché non porta voti. Sullo snellimento burocratico si è fatto poco. Devo dire che sul fronte fiscale forse qualcosa si è fatto, forse se ne vedranno i risultati, diciamo, a breve, perché bisogna dire onestamente che con l'attuazione dei decreti della delega fiscale qualche intervento nella direzione di una maggiore certezza del diritto, di il riordino degli interpelli, diventa più facile il dialogo con l'amministrazione, insomma qualcosa lì è stato fatto. Certamente partiamo da, diciamo così, indietro, che bisogna fare molto di più e molto più velocemente. Questa è un po' la sintesi, direi. Grazie a Fabrizio Acerbis, managing partner appunto di PricewaterhouseCoopers, e a Salvatore Padula, banalmente vice direttore del Sole 24 Ore. Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, è chiaro che siete preoccupati per il giubileo, siete preoccupati per la sicurezza, ma veramente state ricevendo già moltissime cancellazioni, soprattutto dall'Asia, di turisti che facevano il classico tour dell'Europa, Parigi-Roma, magari Venezia, oppure Londra-Parigi-Roma, no? Soprattutto dall'Asia, parliamo del sud-est asiatico, quindi Corea, Giappone, Cina, eccetera, però legate sostanzialmente a un passaggio a Parigi, quindi probabilmente sull'onda dell'emozione che giustamente un po' ha creato questi fatti che si sono verificati a Parigi, hanno deciso di cancellare quello che poteva essere il viaggio. Però sul monte prenotazioni generali al momento non mi risulta che sia superiore all'1-2%. No, ecco, no, perché la domanda successiva che avevo è chiaro che la situazione è tesissima. Vedo adesso evacuata la metropolitana 3, la fermata Duomo, se ho ben visto. Adesso cerco di guardare le agenzie per un pacco sospetto, e ci mancherebbe. Però l'importante è non aumentare l'allarme, non so come dire, per cui se lei mi dice sì, ci sono dei segnali di cancellazioni in chi faceva il tour da Parigi, soprattutto gli asiatici, ma sono, se ho ben capito, sotto l'1%? Sì, tra l'1-2% non è una cifra esagerata, tra altre cose i mercati che non hanno niente a che fare con il giubileo, perché chiaramente sono di religione completamente diversa, quindi è solamente sull'onda di un'emotività giustamente che hanno provato e quindi hanno deciso o di cancellare il viaggio o di cambiare destinazione, tanto è vero che in alcune situazioni le stesse agenzie che ci hanno cancellato il tour ci hanno anche detto che probabilmente nei prossimi giorni riceveremo delle nuove prenotazioni di tour che li fanno escludendo Parigi, quindi è un momento un po' così, è una settimana che è successo quindi è un momento un po' difficile, ma comunque io credo ma voi siete preoccupati per i presidi, ho visto una sua dichiarazione su Roma Termini, non è pronta, e sui clienti non censiti? Ma guardi, allora diciamo che Roma si stava già comunque un pochino più militarizzando, usiamo questo termine, prima dei fatti di Parigi, con l'arrivo del giubileo, quindi comunque erano previsti dei presidi completamente diversi rispetto all'ordinario. Oggi chiaramente è stato fatto un po' tutto in accelerazione, quindi magari alcune realtà, io ho fatto un giro per Roma in questi giorni e ho visto alcuni posti molto controllati, altri un po' meno. Poi c'è l'inserimento di tutta la parte relativa all'intelligence, quindi magari con persone vestite in abiti civili che noi non vediamo, certo. Per cui è un po' difficile da capire, però io penso che comunque nei posti chiave, parlo della stazione Termini piuttosto che in altri punti chiave della città, ci devono essere anche delle persone che visibilmente danno la sensazione che la città è sotto controllo. Un'ultima domanda, prima di lamentarvi poi di comandare giubileo, non è che che i suoi associati stanno ritoccando vistosamente i prezzi? Guardi, al momento io questo problema non lo vedo, ma non c'era stato niente, ma questo è un giubileo un po' low profile, lo ha dichiarato il Papa in primis, quindi noi ci siamo solo gli adeguati. È un giubileo straordinario e come tale non credo che porti più di un 4-5%. Io le dico francamente, ci metterei la firma per chiudere l'anno prossimo con un 5% in più di presenze. Quindi però questo lo abbiamo detto anche prima della settimana scorsa, oggi magari. Allora, io spero che chiaramente non capiti nulla, che questo sia solo una preoccupazione iniziale, delle conseguenze iniziali, e in bocca al lupo anche a tutti gli albergatori di Roma. È chiaro che non possiamo parlare adesso, vedo alcuni messaggi dei 3.000 euro, ne parleremo col Presidente Nazionale, ma non è questo il caso, questo era il caso del giubileo e delle preoccupazioni di Federalberghi Roma, in cui ringrazio anche il Presidente Giuseppe Roscioli. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, ci risentiamo domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia con la poco invidiabile classifica. Radio 24, la passione si sente.